Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e naturalmente buona giornata. Oggi a Salva Danaio torniamo a parlare di mutui, un tema sempre molto sentito dalle famiglie che ci ascoltano, soprattutto alla luce della crisi economica di questi anni che ha reso un po' più difficile riuscire a stipularne uno. Le banche, per affrontare anche tutta una serie di problematiche, hanno dovuto un pochino restringere i cordoni della borsa, sono state un po' meno generose del passato nell'erogare appunto finanziamenti a lungo termine, ma anche una volta che si riesce a stipularne uno, non è che, come dire, la partita è chiusa e non ci si rende, questo non ci rende privi di dubbi e preoccupazioni. Il dubbio amletico, intanto, all'atto della stipula del mutuo resta sempre, in particolar modo uno, quello della scelta tra mutuo a tasso fisso o a tasso variabile. Quest'ultimo, negli ultimi anni, si è sempre affermato di gran lunga come il preferito dagli italiani, perché i tassi di riferimento sono al minimo storico, di conseguenza rende la rata a questa circostanza appunto piuttosto leggera. Ma nel 2011 aumenteranno i rischi, perché dalla prossima riunione della Banca Centrale Europea prevista per il 7 aprile si prevede che possa arrivare la notizia del primo aumento dei tassi da un lungo periodo a questa parte, che potrebbero passare dall'1% nell'Eurozona all'1,25%. Una manovra probabile, non certa, lo ha specificato più volte il Presidente della Banca Centrale Europea, ma il mercato dà quasi per scontato questo intervento. E allora che cosa succederà? Ci saranno degli aumenti per le rate mensili dei mutuatari, di coloro che hanno il mutuo a tasso variabile. E allora, alle incertezze e alle preoccupazioni relative a questa situazione, ha voluto trovare una risposta all'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, insieme ad un gruppo di Associazione dei Consumatori 17, che in sostanza che cosa hanno fatto? Hanno concretizzato un annuncio che era stato dato in precedenza dal presidente dell'ABI, Mussari. Verrà avviato un tavolo di confronto con l'obiettivo di approfondire questo tema, cercando di dare ai cittadini maggiori strumenti per prendere consapevolmente le proprie decisioni. Allora noi di tutto questo parliamo questa mattina con appunto, come dire, i rappresentanti delle organizzazioni che hanno sostanzialmente firmato e hanno sottoscritto questo tavolo di confronto. Abbiamo con noi intanto il dottor Angelo Peppetti, ufficio crediti dell'ABI, che saluto perché è un gradito ritorno per la nostra trasmissione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E un altro gradito ritorno è quello dell'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione dei Consumatori, Casa del Consumatore. Avvocato, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Io tra l'altro ci tengo molto ad anticipare ai nostri ascoltatori che ricoinvolgeremo la prossima settimana l'avvocato Ferrari in una nostra trasmissione, perché vorremmo fare il punto su una questione della quale stanno parlando da molto tempo tutti i giornali e sulla quale colpevolmente ancora Salva Danaio non è andata a parare, ma ci piacerà farlo, appunto lo scandalo Aiazzone, questo mobiliere, chiamiamolo così, appunto straconosciuto nel nostro paese, che ha lasciato invece in braghe di tela molte famiglie perché non sta consegnando tutti gli ordini fatti. Insomma, racconteremo anche la storia di questo, che credo sia proprio pienamente, anche peraltro magari avvocato Ferrari, raccontiamolo in un minuto, anche una storia di un dissesto finanziario che chiaramente poi colpisce anche le famiglie e i clienti, no? Beh sì, è una questione che è venuta fuori pian piano in sordina a partire dall'autunno dello scorso anno. Incominciavano ad esserci difficoltà di consegna, scarsa qualità, e poi praticamente è esploso con l'inizio dell'anno, la chiusura di vari punti vendita, non consegnati migliaia di arredamenti mobili, esatto, la consegna a migliaia di clienti, e il problema è gli acconti che hanno versato e i finanziamenti che hanno sottoscritto, esatto. Questi. Allora, non anticipiamo niente, ci risentiamo la settimana prossima per questo tema, poi però l'avvocato Ferrari rimane con noi questa mattina per spiegarci anche la valenza di questo tavolo di confronto aperto con l'ABI per cominciare così ad assistere in qualche maniera anche le famiglie che nei prossimi mesi affronteranno l'aumento dei tassi di interesse e quindi l'aumento della rata del mutuo. Allora, per intervenire stamattina, come sempre, il numero è lo stesso, è l'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, la nostra scheda. Quella di stipulare un mutuo è già di per sé una scelta complessa e delicata, che impegna una famiglia per anni. A disturbare il sonno del mutuatario, però, oltre alla rata che incombe a fine mese, c'è anche la scelta iniziale tra tasso fisso e variabile, o la possibilità di un passaggio dal primo al secondo, o viceversa. Il dubbio è sempre lo stesso. Qual è la strada giusta da imboccare? Una domanda a cui l'ABI vuole trovare, se non risposte certe, almeno indicazioni e linee guida, insieme alle associazioni dei consumatori. Come annunciato la scorsa settimana dal presidente Mussari, verrà infatti avviato un tavolo di confronto con l'obiettivo di approfondire le complicazioni legate all'aumento dei mutui a tasso variabile, definendo una serie di istruzioni per l'uso che permettano al cliente di informarsi per scegliere liberamente e consapevolmente. Tutti i riflettori sono puntati sulla prossima riunione della BCE, prevista per il 7 aprile, dalla quale si prevede possa arrivare la notizia di un aumento dei tassi dall'1 all'1,25%. E probabilmente non sarà l'ultimo. Entro il 2011, infatti, potrebbe arrivarne un altro della stessa entità. Che ripercussioni avrebbe questo rialzo sulle rate mensili? Su un mutuo decennale di 100.000 euro, con l'opzione variabile, l'aumento sarebbe di 132 euro all'anno, mentre nel caso di un mutuo ventennale di 200.000 euro, l'aggravio della rata sarebbe di 52 euro al mese, pari quindi a 624 euro all'anno. Non a caso ha iniziato a crescere il numero di italiani che sceglie il tasso fisso, il 24% nel secondo semestre 2010. Il variabile, dal canto suo, resta in assoluto il preferito, a quota 47%, ma sembra diventare ogni giorno più rischioso. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. In alternativa potete scriverci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Dottor Peppetti, Ufficio Crediti ABI, adesso prima di entrare nel merito di questo tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, peraltro ne avete organizzate tanti negli ultimi anni, e ancora, come dire, devono essere definiti molti aspetti relativi all'operatività di questo tavolo di confronto, però l'importante è che sia partito. Le faccio fare anche un po' di consulenza, come dire, sul tema del mercato interbancario ai nostri ascoltatori, perché c'è un ascoltatore subito, Marco da Treviso, che ci scrive: perché in attesa dell'aumento dei tassi aumenta l'Euribor e perché aumenta in proporzione così tanto? Quello a tre mesi stamattina viaggiava intorno all'1,18%, per la verità ancora non ha neanche incorporato la manovra dello 0,25% possibile da parte della Banca Centrale Europea. Il tema è che sempre il mercato interbancario si muove diversamente rispetto ai tassi di riferimento dell'Eurozona. Sì, ricordiamo che la manovra della BCE serve per introdurre o meno liquidità sul mercato, e ciò viene fatto per evitare sia distorsioni che ridurre l'effetto, ad esempio, dell'incremento eccessivo del tasso dell'inflazione. Ricordiamo anche che, come giustamente lei ha ricordato, l'incremento non ha ancora incorporato l'eventuale incremento che sarà previsto dalla BCE a partire dal 7 aprile, in quanto sia al tasso a un mese, a tre mesi, a sei mesi. L'incremento è stato del 0,1-0,15%, quindi ancora non comprensivo dell'eventuale incremento che vi sarà da parte della Banca Centrale Europea. No, anche per ricordare che qualcuno qualche aumento della rata l'avrà già cominciato a notare. A me per esempio è accaduto, proprio perché ho un mutuo a tasso variabile agganciato all'Euribor a tre mesi, che già si sta muovendo al rialzo rispetto al tasso di riferimento della BCE da qualche settimana, per cui già qualcuno sicuramente un aumento l'ha notato nella rata, Peppetti. Questo è un po' è strano, perché solitamente l'aumento, siccome la rata viene calcolata sul tasso relativo al mese precedente o ai tre mesi precedenti, secondo se sia l'Euribor a uno o a tre mesi, gli effetti si verificano come al solito con un certo gap temporale di ritardo, proprio perché, ripeto, il calcolo della rata viene fatto sulla valutazione del tasso del mese precedente o dei tre mesi precedenti, ripeto, dipende dalla frequenza del calcolo dell'Euribor. Però ovviamente in futuro ci sarà sicuramente un incremento dei tassi, che abbiamo appunto calcolato in media intorno ai 10 euro a rata su un debito residuo di medio di 120 euro, certo. 120.000 euro. Poi ci racconterà Peppetti che cosa intende fare questo tavolo. Vorrei sentire però l'Associazione dei Consumatori, la Casa del Consumatore, il presidente, l'avvocato Giovanni Ferrari, per capire se già qualche associato, se qualche famiglia avvicina l'Associazione dei Consumatori per cominciare a quantificare questo possibile aumento che stiamo preannunciando da un po', in modo tale da non trovarsi completamente impreparati a questo appuntamento che è un po' spiacevole, lo dobbiamo riconoscere, però insomma, se il mutuo è stato sottoscritto consapevolmente non dovrebbe rappresentare questo aumento più di tanto una sorpresa nei prossimi mesi, avvocato? Ma sì, sono in tanti che ci contattano anche attraverso il nostro blog proprio per chiederci consiglio, e tra l'altro è un consiglio sempre difficile da dare, se è meglio il fisso, il variabile, se devono cambiare, perché poi grazie a Dio abbiamo da ormai da qualche anno questa possibilità di surroga, di cambiamento da una, sia da un istituto all'altro, sia da una tipologia di mutuo all'altro. È una cosa che va vista caso per caso, anche il discorso dell'aumento della rata ovviamente è un peso che grava maggiormente sui mutui di recente apertura, perché più ci si avvicina alla fine del mutuo e più chiaramente gli interessi incidono in misura minore sulla rata, e per cui anche l'aumento dei tassi va alla fine a incidere poco sull'ammontare della rata. Vero è, secondo quello che è stato stimato, che il tasso variabile negli ultimi anni è sempre stata la scelta più conveniente. Il problema è vedere sul lungo termine è conveniente, ma vedere nel mese se si riesce a far fronte alla rata. All'aumento, certo. E allora lì entra in gioco sia una valutazione corretta che è stata fatta all'epoca dell'apertura del mutuo da parte della banca, sia una valutazione corretta fatta da parte dello stesso mutuatario, sia ovviamente le eventuali mutate condizioni economiche della famiglia, perché attraversiamo un momento di crisi e in tanti hanno avuto un cambiamento delle condizioni della famiglia. E quindi magari anche 15 euro di aumento possono, come dire, magari per qualcuno significare poco, ma sono cominciano ad essere e appunto 150, andare 200 euro alla fine dell'anno, e quindi insomma sono... Anche perché ne abbiamo tante di queste voci, tanti di questi aumenti dalla benzina sino ad arrivare a mille voci che ci sono aumentate il trasporto pubblico, e per cui è poco da tutte le parti, però sommandolo effettivamente si percepisce che sta riniziando l'inflazione, che si è fermata per un bel po' di mesi, ma ora sta riprendendo, siamo intorno al 2,4%, questo è il motivo principale per cui la BCE ha deciso di intervenire. Poi, alla luce anche, come dire, della crisi libica, della crisi giapponese, sono un po' di nuovo ricambiate le condizioni di mercato, forse la BCE potrebbe anche decidere di non fare questa manovra il 7 aprile, non ci metterei la mano sul fuoco, ma magari un ritocchino comincerà a farlo, forse non ne farà tre da qui alla fine dell'anno. Comunque monitoriamo, e soprattutto se ancora il mutuo non l'abbiamo sottoscritto, in virtù di questi possibili aumenti, se decidiamo proprio di optare per il variabile, facciamoci fare un chiaro prospetto da parte del consulente bancario al quale ci rivolgiamo, e cioè per ogni intervento sui tassi a quanto ammonterà l'aumento della nostra rata, in modo tale che ci troviamo preparati e non totalmente sorpresi di fronte appunto ad un aumento che riguarderà la nostra rata nei prossimi mesi. Sul fisso poi il discorso è un altro. Allora, stanno arrivando delle domande degli ascoltatori, cominceremo a rispondere loro subito dopo la nostra prima pausa. Intanto vi ridò i parametri per interagire con noi, che sono 800 24 00 24, il numero verde, oppure 349 238 6666 per scriverci, salvadanaio@radio24.it per scriverci qualcosa di un po' più articolato se volete. A tra poco. Allora, oggi ritorniamo a parlare di mutui perché c'è questa notizia che è arrivata nei giorni scorsi. L'Associazione delle Banche Italiane, l'ABI, insieme a 17 associazioni dei consumatori hanno attivato un tavolo di confronto con l'obiettivo di approfondire un tema fondamentale. Intanto, quale modo migliore per dare la consulenza alle famiglie che si stanno accingendo a sottoscrivere un mutuo? Perché questo? Perché c'è uno scenario di fronte a noi di aumento dei tassi di interesse, per cui onde evitare sgraditissime sorprese come quelle che nei confronti delle quali ci siamo imbattuti nell'autunno del 2008, quando i tassi hanno avuto un andamento completamente schizofrenico e hanno fatto letteralmente esplodere le rate delle famiglie italiane. E allora, visto che qua non ci troveremo probabilmente di fronte a scenari inediti come quello, ma comunque i tassi andranno aumentando, allora onde evitare sorprese facciamo in modo appunto che le famiglie sottoscrivano il mutuo nella maniera più consapevole possibile. Per cui, Angelo Peppetti, ufficio crediti dell'ABI, qual è l'obiettivo di questo tavolo di confronto e appunto concretamente come state pensando di muovervi in relazione appunto ai vostri rapporti con le associazioni dei consumatori? Quale tipo di operatività darete a questo tavolo? Ma guardi, i contenuti e le modalità di lavoro del tavolo li stiamo discutendo e concordando con l'associazione dei consumatori. Noi abbiamo voluto avviare l'operatività di questo tavolo sulla base degli ottimi risultati delle esperienze pregresse che ad esempio hanno portato alla definizione dell'ormai famosa sospensione nell'ambito del piano famiglia, che ha rappresentato un ottimo strumento di sostegno alle famiglie in questo periodo in cui sono state registrate moltissime riduzioni della quotazione del merito creditizio in base alla perdita dei posti di lavoro. Vogliamo in questo senso cercare di avviare sicuramente iniziative di informazione, non di comunicazione, cioè vogliamo di fatto informare effettivamente i mutuatari quale possa essere l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse, evitando innanzitutto eccessivi allarmismi perché non giovano a nessuno e potrebbero anche distorcere le possibilità di offerta, di domanda dei mutuatari nella scelta diciamo tra il tasso fisso ed il tasso variabile. Non vorremmo di fatto ad esempio che gli eccessivi allarmismi portassero poi a determinare una richiesta elevata ed eccessiva di mutui a tasso fisso, in considerazione del fatto che il periodo ad esempio dei tassi variabili è un periodo che ha portato, ed è a lungo termine, ha portato tassi molto, molto bassi, quindi un incremento era di fatto atteso, certo. Ed eventualmente verificare se ci sono spazi di manovre anche nell'ambito dei mutui. Ecco, è un momento di dialogo e di confronto nel tentativo di informare al meglio i cittadini sulle opportunità o sugli impatti di questo incremento dei tassi di interesse. Le faccio sentire allora proprio a tale proposito l'osservazione di Giulio da Roma, che lo vedo già sul piede di guerra. Giulio, buongiorno. Buongiorno. Allora, aspetta, mi deve spiegare una cosa: perché si fa ancora un equivoco del genere? I tassi adesso sono bassissimi, infatti, e nel futuro, per problemi evidenti, non potranno altro che salire. Uno infatti, che contrae un stiamo dicendo adesso, da un anno e mezzo, esatto. Uno che contrae un mutuo, male che gli vada, rimangono uguali. Quindi, un'altra volta vogliamo ingannare i poveri cristi a contrarre un mutuo a tasso variabile, quando per i prossimi 7-8 anni i mutui, se rimanessero così, sarebbero un vantaggio enorme, ma in effetti aumenteranno sicuramente i tassi, quindi non c'è nessuna possibilità, infatti, perché meno di così non è non possibile. Possono andare. Perché dice continuare ad ingannare? Stiamo facendo una trasmissione proprio per dire, ma lo facciamo, Giulio, se lei ci ascolta frequentemente, lo facciamo da più di un anno, da quando abbiamo parlato dell'esplosione anche della crisi del debito sovrano dell'Eurozona, con la Banca Centrale Europea che ha avuto l'obbligo di inondare di liquidità il mercato. Abbiamo detto da tanto tempo, guardate che la BCE prima o poi restringerà i cordoni, quindi state attenti, i tassi sono destinati ad aumentare. Lei dice parla di inganno, per quale motivo? Sì, ma da parte delle istituzioni bancarie, è ben chiaro, perché le istituzioni bancarie, quando uno va allo sportello, gli dicono guardi che paga di meno col tasso variabile, e quel poveretto per pagare i 200 euro di meno si mette in barca per 20 anni in una situazione. Quindi va consigliato e vanno aperti gli certo occhi bene da parte delle infatti il tavolo di confronto è fatto proprio per questo. Peraltro, Giulio, io prendendo atto della sua osservazione che è molto dura, c'è anche da dire un'altra cosa, magari su questo mi faccio aiutare dall'avvocato Giovanni Ferrari. Allora, ci sono molte famiglie che naturalmente vogliono la casa dei propri sogni e magari un investimento che richiede, faccio un esempio tanto per essere netta e chiara così, di 200.000 euro che non potrebbe essere sopportato dalla famiglia se richiedesse per finanziare parte di questo importo, non potrebbe essere sopportato se si chiedesse il mutuo a tasso fisso, perché naturalmente la rata è molto più alta rispetto a quello variabile. Quindi qualche volta la scelta del variabile è obbligata se si vuole chiedere un certo importo. Avvocato Ferrari, non so se mi ha seguito. Sì. Quindi qualche volta la banca ha tutti i suoi mille difetti, perché qualche volta chiaramente magari non ci consiglia al meglio da questo punto di vista. Detto questo, è anche vero che qualche volta c'è chi pretende comunque un importo molto alto, per cui è obbligatoria la scelta del variabile perché rende più tollerabile la rata. Sì, però questo è proprio il caso in cui non si dovrebbe fare Il variabile si dovrebbe pensare a fare un mutuo di durata più lunga, se possibile, perché vede, se una famiglia è già tirata oggi a fare giusto un mutuo da 200.000 euro, che poi non è niente di stratosferico visto i valori degli immobili, soprattutto nelle grandi città, e è costretta o comunque sceglie il variabile proprio perché non ce la farebbe a sopportare il fisso, tenuto conto che il fisso è pure basso anch'esso attualmente. E allora però è una scelta di veramente un pochettino azzardata a quel punto. Lo so. Sì, diciamo che qualche volta le banche, per la verità, dovrebbero dire proprio no. Ecco, ma però le banche, io penso che allora bisogna vedere poi caso per caso, perché l'interesse della banca è quello che il cliente paga. Assolutamente, perché le insolvenze non fanno altro che danneggiare le banche. Vero è che questo si dice in linea generale, se ne può parlare con l'ABI, poi il singolo impiegato bancario che magari vuol portare a casa il risultato di aver fatto un contratto di mutuo e vuole incentivare dicendo ma guarda che riusciamo a farti questa offerta col variabile, allora lì sì che entriamo nell'area dell'incontrollabile da parte sia delle banche che delle associazioni di consumatori, e questo spiega perché facciamo iniziative come queste, certo, cioè mettiamo nero su bianco quali sono i rischi che si corrono facendo un variabile. E magari spieghiamo che esistono anche tante nuove opportunità come il variabile col cap, la proposizione, esattamente, che ci stanno indicando anche molti ascoltatori, effettivamente, per cui si può partire chiaramente assumendosi completamente, Peppetti, vengo da lei di nuovo, il rischio di un aumento dei tassi di interesse, però lo si può anche arginare, circoscrivere, sottoscrivendo un mutuo con una protezione che magari è un pochino più costoso rispetto ad un variabile puro, è chiaro, però ci potrebbe mettere a riparo, appunto, ci mette sicuramente a riparo da rialzi insostenibili dei tassi, sperando che non siano mai più insostenibili come 3 anni fa. Solo di sottolineare questa cosa, che ogni volta che c'è un incremento dei tassi di interesse, l'abbiamo visto anche nel dicembre 2008, quando i tassi Euribor addirittura superarono i livelli dell'IRS, vi fu un picco di domanda dei mutui e di offerta, quindi dei mutui a tasso fisso. Anche adesso lei nella scheda ha ricordato che c'è un incremento della domanda di mutui a tasso fisso, perché c'è stata la dichiarazione della volontà di aumentare i mutui a tasso tassi variabili, che significa che non è l'offerta che fa la domanda, ma è la domanda che fa l'offerta, cioè sono i cittadini che di fatto chiedono un determinato mutuo, alle banche offrono il proprio prodotto e hanno lo stesso margine di guadagno, sia se un mutuo a tasso variabile che un mutuo a tasso fisso. Per ampliare l'offerta e quindi per consentire al cliente di avere gli stessi vantaggi del variabile, quindi all'andamento dell'Euribor, ma allo stesso tempo avere la sicurezza di evitare che ci sia un incremento eccessivo, sono stati creati prodotti appunto con il cap che abbiamo ricordato, i prodotti opzione in cui a una certa data si può scegliere tra tasso fisso e tasso variabile. C'è sempre poi, ricordiamo che la normativa italiana prevede anche la possibilità di surrogare e cambiare, esatto, infatti sia nel lato della trasparenza, non esiste una normativa così penetrante sulla trasparenza a tutela del cittadino rispetto agli altri paesi europei, allo stesso tempo ci sono una serie di tutele ulteriori, la possibilità di negoziare, la possibilità di fare portabilità dei mutui, che ricordo è una gratuitamente per il cliente, che ricordo che è un'opzione prevista soltanto per l'ordinamento italiano. Allora, facciamo un po' una prova di lavoro per questo tavolo di confronto, ammettendo che ad un'associazione dei consumatori, in virtù di questa iniziativa appunto che sta partendo, vada Ivan da Treviso, sentiamo un po' come l'associazione dei consumatori, in virtù di questo, potrebbe fare la sua assistenza al nostro ascoltatore. Ivan, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi scusi, io in questi giorni dovrei stipulare un mutuo a tasso fisso variabile, sto decidendo, di un importo di 65.000 euro per 20 mesi con un preammortamento di un anno. Come diceva prima il signor Giulio, io ho paura, mi sono già scottato nel 2006 a fare un tasso variabile che dopo si è rilevato. E certo, è esploso, lei praticamente come una tramvata ha preso tutto l'aumento, come tutti noi, certo. Esatto, adesso ho detto ho paura di scottarmi anche con l'acqua fredda. Quanto dovrebbe essere, quanto dovrebbe durare questo mutuo da 65.000 euro, un importo anche abbastanza ragionevole e contenuto, Ivano, non parliamo di 200 o 250.000 euro come hanno sul gruppone molte famiglie. Dovrei farlo, preciso, dovrei farlo come ditta. Mi è stato proposto con un ribor di 3 mesi praticamente all'1,85 più uno spread di 1,35 che fa un 3,15 variabile. Però qui parliamo, non parliamo di un mutuo per la prima casa, Ivan, magari qua la situazione è un po' diversa e probabilmente le condizioni così proposte dalla banca hanno una natura diversa perché è un finanziamento di natura diversa. Lo stanno peraltro anche altri ascoltatori, mi stanno chiedendo, insomma, per importi di piccola portata, addirittura c'è un ascoltatore che scrive 30.000 euro eccetera, cosa devo fare se protegge dell'aumento dei tassi. Qua però stiamo parlando effettivamente di importi che hanno poco a che vedere con quelli proprio di destinati all'acquisto della casa, che sono molto più alti, però insomma cercheremo di accontentare anche Ivan, il nostro ascoltatore da Treviso che ci ha chiamato poco fa. Però prima sentiamo i suggerimenti, perché in viaggio che meglio. Allora, avvocato Ferrari, casa del consumatore, ha sentito il caso dell'ascoltatore da Treviso, mutuo di piccolo importo, però con tutto il rispetto, magari mutuo anche di questa entità per il bilancio familiare di Ivan, anche se poi è un finanziamento per la sua azienda, è sicuramente un impegno mensile che va onorato e pertanto è pesante. Lui dice, insomma, quale scelta migliore posso fare in questo momento per evitare di ritrovarmi nelle condizioni di qualche anno fa, quando l'aumento dei tassi di interesse mi investì come un treno? Bisogna vedere se vuole scegliere la tranquillità o la possibilità del risparmio, perché se sceglie un mutuo a tasso fisso è sicuro che quella è la rata e quella dovrà onorare ogni mese. Se punta alla possibilità di avere un risparmio come oggi dà al tasso variabile, lo faccia, però ecco, prevedendo la possibilità di aumenti e calcolando già come potrebbe incidere sulla rata, in modo da valutare se effettivamente potrà sostenere questo aumento oppure no. Certo. Ora poi dovrebbe chiederlo più che a noi, ai vostri esperti del Sole 24 Ore, come si prevede l'andamento ma dei, chi può dirlo, ma anni. Lo so, però Ferrari, io dico anche sempre questa cosa qua, a parte il fatto che per esempio Nicola, io faccio sempre questo ragionamento, siccome un aumento esagerato lo abbiamo già sopportato, molte famiglie oggi potrebbero fare una simulazione del possibile aumento prendendo in considerazione gli aumenti che ci sono proprio stati nel 2008. No? Ecco, insomma, qual è la situazione più drammatica che potrebbe arrivare? L'abbiamo già vista nel 2008, siamo in grado di sopportare una rata che esplode fino a quel livello? Io in testa ho un ragionamento sempre di questo tipo, se anche due aumenti cominciano ad essere insopportabili per noi, allora direi proprio che vale la pena magari partire con un livello un po' più alto ma garantirci la sicurezza del tasso fisso. Peppetti, non so se concorda con il mio ragionamento. Ma sì, guardi, ripeto, come giustamente anche lei ha ricordato, è molto difficile fare ognuno deve fare i conti a casa propria, è certo. Primo. Con la propria propensione al rischio, insomma, no? Quindi... Ecco, però ci sono anche alcuni ascoltatori, Peppetti, poi magari lì l'ufficio studi dell'ABI, che è composto da fior di economisti che conosco anche molto bene, chiedono: ma siete proprio sicuri che un'escalation sui tassi di interesse non arriverà nei prossimi mesi? Perché noi ci avremmo messo la mano sul fuoco anche nel 2008, era un momento drammatico, era fallita Lehman Brothers, le banche non si prestavano denaro, però insomma, che ne dice? Siamo tranquilli per qualche mese. Non si può escludere nulla, perché non si possono escludere in una situazione economica, ma di mercati in generale così variabile, e anche in considerazione delle tensioni a livello internazionale che possono incidere anche sulle politiche monetarie adottate dalle banche centrali. Ripeto, è molto difficile poter fare una valutazione prospettica nel lungo, nel medio periodo. Nel breve periodo si può ritenere che vi sia un graduale incremento dei prezzi, ma ripeto, si può prevedere, nessuno ovviamente ha una palla di vetro per poter predire. Anche perché, anche perché qua se la crisi libica non si ferma, guardate che lo shock petrolifero adesso non ce l'abbiamo dietro l'angolo, però non ci dice nessuno appunto che questo non si potrebbe verificare. Allora, ci sono tante domande, io veramente sono un po' in difficoltà su quella da scegliere. C'era un ascoltatore che tra l'altro si è prenotato telefonicamente, ma non lo abbiamo interpellato, però mi sarebbe piaciuto sentire questa domanda, perché dice: per quale motivo non vengono prese misure nei confronti delle banche, per quelle banche che hanno aumentato l'Euribor senza che sia stato stato fatto a livello europeo. Guardate che è la BCE che stabilisce un tasso di riferimento, l'Euribor è un'altra cosa, è quel tasso a cui le banche tra di loro si prestano denaro, perché prima le banche chiedono denaro alla Banca Centrale Europea, io lo dico in maniera molto banale, poi chiaramente i meccanismi sono più sofisticati, dopodiché si prestano denaro fra di loro e qua il tasso a cui lo fanno è un altro, che è l'Euribor, per cui non è che questo lo sceglie qualcuno, è un tasso di mercato e come tale appunto si muove. Sentiamo Eber dalla provincia di Milano, rapidissimo, buongiorno. Eber, dove è finito? Non lo so, non abbiamo capito, tra l'altro ero anche curiosa di capire che origine avesse questo nome. Vediamo appunto se riesco invece a trovare qualche domanda interessante sui messaggi che ci stanno arrivando, molti suggerimenti diretti da parte degli ascoltatori sulla scelta del mutuo con il CAP, con la protezione, magari Peppetti in 30 secondi, esattamente un mutuo di questo tipo come funziona? Ma è un mutuo che prevede sostanzialmente un cap sul tasso dell'interesse, quindi la sicurezza che in caso di incremento superiore al tetto previsto dal contratto, al cliente comunque è garantito il pagamento di una rata flat che non può superare appunto quella calcolata con il tasso interesse a quel tetto. Ovviamente costa leggermente di più rispetto ad un variabile, un variabile puro, ma ripeto, consente di garantire al cliente di avere i vantaggi del tasso variabile e la sicurezza del tasso fisso. Allora, purtroppo io non riesco più a sentire adesso l'ascoltatore o l'ascoltatrice di Milano, perché dobbiamo andare già al... ce la facciamo, Pietro? Ah, mi dice di sì. Eber, buongiorno. Uomo donna, sì, intanto. Buongiorno. Eccolo. La sento? Sì. Sì, salve. Senta, io ho stipulato un mutuo nel 2008 per 200.000 euro. Sì. No? E al tasso fisso, dove pagavo una rata mensile di 1.200 euro. Sì. Un mese fa, cioè, siccome non riuscivo più a sostenere questa rata qua, sono andato in banca a chiedere di diminuirlo, sì, di rinegoziarlo. Loro mi hanno proposto di passarlo a variabile, certo, dove risparmiamo praticamente 370 euro. Buttale, cioè, via. Quindi adesso, infatti, insomma, ha respirato, lei dice, insomma, ho fatto la cavolata del secolo. Ecco, perché tutti mi dicono che ho fatto la cavolata. Allora, Eber, ascolti la Ferrari, devo chiudere molto rapidamente. Allora, intanto respira, Eber, e magari può prendere parte di quel risparmio, metterlo da parte e affrontare poi l'aumento dei tassi che arriverà. Non credo che abbia fatto una sciocchezza, perché sicuramente risparmia quasi 400 euro al mese, e anche se dovesse arrivare un aumento dei tassi clamoroso, non pagherà subito di più 400 euro sul mutuo attuale. No, non ha fatto una scelta sbagliata. Potrà un domani magari pentirsene se veramente salissero tanto, però sarà sempre a tempo a passare di nuovo a un fisso, non avrà più le condizioni che aveva il suo fisso del 2008, però potrà comunque sistemare la questione, anche eventualmente, come dicevo prima, allungando. Potrà un po' la durata. Ritornare a discutere con la sua banca, Eber, secondo me lei ha fatto la cosa giusta, almeno in questo momento. Adesso andiamo alla nostra pillola di assuggestioni. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Buonasera, ho sentito parlare di un servizio online dedicato ai fondi. Volevo sapere di che cosa si tratta. Si chiama Italian Fund Hub, il nuovo servizio web promosso da Assogestioni con l'obiettivo di semplificare l'accesso alle informazioni chiave per gli investitori in fondi comuni. Ad oggi aderiscono al servizio già 20 società di gestione operanti in Italia e sono presenti sul sito informazioni relative a più di 4.000 fondi e classi di fondi. Tramite l'Italian Fund Hub, per ogni fondo gestito dalle società aderenti al servizio, è possibile visualizzare e scaricare, oltre al NAV, ovvero il valore giornaliero della quota, la performance ad un giorno dall'inizio dell'anno a 1, 3 e 5 anni. A breve sarà consultabile su Italian Fund Hub anche la banca dati di Assogestioni, che raccoglie i dati sul mercato del risparmio gestito. Si tratta di un patrimonio di dati che spaziano su un arco di tempo di oltre 20 anni che Assogestioni rende accessibile tramite un motore di ricerca. Le domande del risparmio. Continuate a mandarci le vostre domande sul risparmio alla segreteria telefonica 828 12 12. Noi continueremo a rispondervi nei prossimi giorni. Intanto saluto e ringrazio per essere stati con noi l'avvocato Giovanni Ferrari della Casa del Consumatore e Angelo Peppetti dell'ABI. Avete sempre una gran fame di informazioni sui mutui. Ci ritorneremo prestissimo sull'argomento. Grazie a Gaia Romani, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorti in assistenza tecnica. Ho finito con tutti i ringraziamenti. A domani.